riprendiamo gli ultimi due degli autori che precedono Agostino. Eravamo arrivati ieri a Tertulliano, adesso dobbiamo vedere qualche cosa di Origene. Origene. Secondo che pronuncia latina, diciamo Origene. Accettiamo. E anche lui, anche Origene, ha molto a che fare con gli gnostici e quindi tenta di chiarire qual è l'origine del male. È molto interessante Origene perché è un uomo che ha avuto un pensiero vastissimo, profondissimo e che ha influito anche molto. In questo ha fatto anche, diciamo, alcune delle sue idee sono poi, diciamo, non accettabili. Però è interessante leggere quando lui, in uno dei passi di una delle sue opere, dice quali erano alcune verità chiare e altre che invece ancora nella Chiesa non erano state definite, per avere un'idea di come poi, in che ambito si muovevano, in che ambiente si muovevano questi uomini. Origene a metà del terzo secolo. Allora dice, per esempio, un punto incontestato dell'insegnamento della Chiesa è il libero arbitrio dell'anima ragionevole. Questo è incontestato. Abbiamo visto che anche un po' per tutti gli altri autori che abbiamo incontrato già, il libero arbitrio, tra l'altro causa del peccato di Adamo, era un punto incontestato. Però poi dice, l'anima dice, si trasmette per generazione in virtù delle forze seminali del corpo, sarebbe l'idea di Tertulliano e di altri, il traducianesimo, cioè l'anima che passa da un essere umano, in particolare dal padre al figlio, oppure ha un'altra origine, se sia generata o no, se sia infusa o no nel corpo umano. Questi sono problemi che l'insegnamento della Chiesa non risolve in maniera assoluta. In quel momento non c'era una dottrina chiara. Poi dice, in quale momento e in quale stato gli angeli furono creati? Anche questo, dice, non è ancora chiaro. Qual è il loro modo di essere? Nemmeno questo la fede ce lo dice più chiaramente. Addirittura dice che il sole, la luna, le stelle siano animati o no, non lo sappiamo con certezza. Insomma, dico, poi una volta sente dire, Origene ha la teoria della preesistenza delle anime che sarebbero esistite prima di essere nei corpi, la pocatastasi, no? La riconciliazione, ha sbagliato, sì, ok, però insomma molti punti erano ancora labili, mobili nella dottrina. Vediamo appunto alcune delle idee principali di Origene. Lui appunto afferma la preesistenza delle anime. Tutti gli spiriti, sia degli angeli sia degli uomini, sono stati creati e messi di fronte a un'opzione. E praticamente tutte le anime, eccettuata quella di Cristo, e forse qualcun'altra, dice, tutte avrebbero peccato e sarebbero state quindi precipitate nei corpi, sia come castigo, sia per ritrovare poi gradualmente la propria rielevarsi, diciamo, la propria unione con Dio. Quindi l'essere nei corpi è un castigo, per la visione. Quindi anche, per esempio, è poco chiaro come avviene com'è la nostra solidarietà con Adamo. Per origine potrebbe essere che, in un certo senso, ciascuno di noi sarebbe stato insieme ad Adamo espulso dal paradiso e quindi poi più tardi la nostra anima messa nel corpo, oppure comunque è incerto, l'origine delle anime è sempre un po', si mantiene anche un margine di incertezza. Altrimenti l'idea potrebbe essere anche quella che tutte le anime derivano da Adamo. ad ogni modo su questo ci muoviamo in un terreno poco sicuro. Dicevo. Un punto chiaro invece di origine è che nessuno, dice, è esente da macchia, nemmeno se la sua vita è durata un giorno. In questo cita Giobbe. Quindi, e qual è la causa della macchia che c'è nell'anima? Qui, da quello che ho capito io, è un po' poco chiaro, perché lui vede come causa di questa macchia la nascita nella carne. In realtà, naturalmente dovrebbe essere già il peccato commesso quando l'anima era preesistente. Siccome però è un po' dubbio, come lui veda l'origine delle anime, senz'altro nel momento in cui l'anima entra nella carne, in questo contatto con la carne riceve una macchia che poi ha bisogno di essere purificata nel battesimo in cui muore e risorge con Cristo. Diciamo, ecco, io non ho tratto molti punti in più della dottrina di origine su quello che ci interessa, perché è vastissimo, ha parlato di tutto. Però queste mi sembrano, senz'altro ogni uomo nasce con una macchia, questa macchia c'è, ha una visione negativa della carne, sia perché il corpo ci è dato come, diciamo, come punizione, sia perché quando l'anima si unisce al corpo in questo riceve senz'altro, dice, una macchia di peccato e di iniquità che va lavata, ha bisogno di essere lavata e purificata nel battesimo. Passiamo all'ultimo autore, che è Gregorio di Nisa, che è molto interessante. È molto interessante tra i cappadoci. E lui è un filosofo, oltre che, diciamo, teologo, e quindi maneggiava anche con parecchia padronanza concetti filosofici. E un'opera soprattutto sua importante, che è un'opera, una vera antropologia, il De Hominis Opificio, che riprende un'opera di Basilio, di suo fratello, però dando lui, Gregorio, contributi molto originali e importanti. Alcune delle idee principali: l'uomo è considerato immagine di Dio soprattutto per l'anima più che per il corpo, questo come anche altri lo pensavano. La sua vera grandezza è la spiritualità, questo lo rende vicino a Dio e simile a Dio, diciamo. Poi, ecco, punto interessante per noi: Gregorio legge la Genesi e distingue come due momenti della creazione, perché quando in Genesi 1, capitolo 1, si dice Dio creò l'uomo, a immagine di Dio lo creò, poi il maschio e femmina lo creò, qualcosa del genere, lui legge separatamente le due parti della frase e quindi dice, prima di tutto, a immagine di Dio lo creò. E allora dice, quando la scrittura dice Dio creò l'uomo, con l'indeterminazione di questa formula, essa designa tutta l'umanità. Cioè, dice, fino a qui si descrive come Dio ha già creato tutta l'umanità. Infatti, in questa creazione Adamo non è nominato, come invece farà in seguito la storia. Il nome conferito all'uomo non è tale o tal'altro, ma è il nome dell'uomo universale. Quindi è tutta l'umanità che in questa prima creazione viene abbracciata dalla prescienza e dalla potenza divina. Come se in un primo momento Dio ha creato, forse più nel senso di avere pensato e previsto tutta l'umanità. E poi in un secondo momento invece avviene effettivamente la creazione concreta dell'uomo maschio e femmina. Perché in un secondo momento? La difficoltà che vede Gregorio è di pensare che, dice, se l'uomo è immagine di Dio e Dio non è né maschio né femmina, quindi non ha sesso, come può essere che l'uomo pensato da Dio fin dall'inizio sia maschio e femmina? Bisogna pensare che in un primo momento Dio ha pensato l'umanità, c'è un po' di, probabilmente un po' di platonismo anche in questa sua visione. E allora, cosa succede? Dio nella sua prescienza ha visto tutta l'umanità e ha visto anche, dice Gregorio, il cattivo uso che l'umanità avrebbe fatto della libertà. E ha visto anche che l'uomo peccatore, l'uomo che appunto non doveva essere connotato né maschio né femmina, l'uomo che in principio avrebbe dovuto potersi moltiplicare, lui dice, come fanno gli angeli. Dice, non so come fanno, però avrebbe dovuto moltiplicarsi per una via, diciamo, puramente spirituale. E Dio vide che l'uomo peccatore non avrebbe più potuto moltiplicarsi alla maniera degli angeli. E allora ha deciso di dare agli uomini dei corpi di carne, capaci di propagarsi per via di generazione carnale. Ma non era l'unico che pensava cose di questo tipo. E quindi, comunque, non è un'idea, cioè non è che lui dice Dio ha creato già l'umanità, Dio ha visto quello che sarebbe successo, e allora poi nel momento in cui concretamente ha creato maschio e femmina. Di fatto poi il peccato di Adamo avviene già sulla terra, non è che lui non dice è un peccato avvenuto prima, per lui le anime non preesistevano, le anime sono create, l'anima di Adamo è creata insieme al corpo. Il fatto è che Dio ha creato l'uomo anima e corpo perché ha previsto nella sua prescienza quello che sarebbe avvenuto. Ecco, lo squilibrio allora che noi notiamo tra la ragione e i sensi, quello che poi noi chiamiamo anche adesso concupiscenza, è proprio dovuto al fatto che l'uomo non ha potuto essere quello che avrebbe dovuto, cioè immagine di Dio, non fatto maschio e femmina, invece l'uomo fatto così come è stato fatto ha in sé sia l'immagine di Dio nell'anima, sia l'immagine di sé delle bestie, quindi la tendenza, diciamo, una sensibilità anche che va oltre quello che dovrebbe essere. La generazione carnale per Gregorio sembra essere un male di cui si usa per giungere un bene, cioè un male accettato perché l'uomo possa effettivamente moltiplicarsi come doveva essere dall'inizio, però deve farlo per una via non prevista. E bene, l'uomo che è creato, pensato da Dio per essere immortale, è invece stato poi è invece mortale a causa del peccato di Adamo. Quindi per lui senz'altro la morte è conseguenza del peccato di Adamo. Per concludere, anche Gregorio, anche lui, come in generale succede per gli altri, mette molto l'accento, molto di più l'accento sulla redenzione operata da Cristo piuttosto che sul peccato. Dio contempla, è vero, l'umanità fin dall'inizio come peccatrice, però la contempla anche fin dall'inizio in Cristo, alla luce di Cristo, e la destina a poter essere salvata. E la visione alla fine anche di Gregorio è fondamentalmente ottimista. Sarà più, invece, forse più, un po' più pessimista, diciamo così, quella di Agostino. Allora, questa è una carrellata di alcuni degli autori più significativi dei primi secoli, ce ne sarebbero altri, sia orientali sia occidentali, anche alcuni dai quali Agostino poi prenderà molto spunto. Però mi sembra che questi almeno danno già un'idea di come si muovevano interpretando la scrittura i padri. E si vede anche che piano piano alcune verità si vanno delineando. Il fatto che il male non è attribuibile a Dio, che è conseguenza del libero arbitrio mal usato degli uomini, il fatto che la morte è entrata nel mondo a causa come punizione per il peccato, ma anche come misericordia di Dio. E, ecco, ci sono varie incertezze sia sull'origine dell'anima, sia su come l'anima si contagia, diciamo, con questa macchia originale l'anima. Ci sono dubbi sulla piena o parziale bontà del corpo e della generazione umana, ecco. Però alcune idee si vanno mettendo a fuoco. Arriviamo allora ad Agostino. Agostino, che sicuramente è una pietra miliare, fondamentale, importantissima nella definizione del dogma del peccato originale, della verità sul peccato originale, perché avrà un'influenza clamorosa, decisiva anche nella storia successiva, fino praticamente al Concilio di Trento, che consacra in buona parte quello che dice Agostino, forse non totalmente, non pienamente, ma in buona parte sì. Alcuni dicono che Agostino avrebbe inventato lui il peccato originale, invece è un errore dire così, una visione sbagliata, perché Agostino quello che fa è raccogliere gli elementi di una tradizione che in parte un po' abbiamo visto anche, che lui riceve, lui non ha la pretesa di inventare niente, anzi lui si attiene fondamentalmente a due cose: alla scrittura e a quello che riceve dalla Chiesa, sia alla tradizione che riceve, all'insegnamento dei padri, sia alla prassi della Chiesa sul battesimo. Lui sa che la Chiesa battezza tutti, non solo gli adulti ma anche i bambini. Ecco, quindi Agostino si muove in modo con una grande fedeltà alla Chiesa, e lo diciamo già in anticipo, anche quando alcuni punti della sua dottrina sono duri, difficili da accettare, per esempio il fatto che lui ritiene che i bambini che muoiono senza battesimo non si salvino, si rende conto che questa è un'affermazione molto dura, accetta anche di essere preso per, come diceva anche Pelagiani, un persecutore dei bambini, però non si sente di andare fuori da quello che lui ha raccoglie dalla scrittura, dalla tradizione, dalla prassi della Chiesa. E, senz'altro, ecco, quindi insomma, il lavoro di Agostino è un lavoro ammirevole. In alcune cose, probabilmente anche su questioni relative all'importanza della grazia, al fatto che in un certo senso Dio predestina, secondo lui in un modo molto forte, chi si salva e chi no, ecco, su alcuni punti probabilmente esagera un po', infatti poi non è che siano stati raccolti così come tali dalla tradizione successiva, però su molti altri invece lui mantiene la fede e la chiarisce anche nei confronti delle eresie, sia dei manichei che dei pelagiani. Allora, possiamo cominciare a vedere qual è per Agostino la condizione originaria dell'uomo, qual era lo stato dell'uomo nel paradiso originale, e poi entriamo un po' nella questione pelagiana, in modo che lì si chiariscono bene i vari punti fermi della dottrina di Agostino sul peccato originale. Sullo stato originale, nel suo commento alla Genesi, il De Genesi ad Litteram, lui interpreta in modo fondamentalmente letterale il racconto della Genesi, e però poi mette in luce anche alcuni significati spirituali. Ad ogni modo, a suo parere, l'uomo, lui dice, l'uomo è fatto proprio del fango della terra. È fatto del fango della terra, quindi è stato creato da Dio con un corpo, e è collocato, siccome ha un corpo, è collocato in un paradiso corporale, che era un luogo ben determinato. Quindi lui non pensa come origine che gli uomini siano creati prima come spiriti e poi dopo messi nel corpo. Neanche pensa come Gregorio di Nissa, che dice che Dio nella sua prescienza immagina prima l'umanità e poi dopo... No, lui dice no, l'uomo è stato creato da subito con un corpo, il corpo non è una punizione di nulla, ed è messo in un luogo fisico, cioè, diciamo, diremmo oggi, no? In un luogo corporale, in un paradiso corporale. E fu un uomo nel senso letterale del termine, dice, e che visse un certo numero di anni e che, avendo generato una numerosa posterità, morì come gli altri uomini, benché non fosse nato come gli altri uomini, da genitori, ma tratto dalla terra. Quindi, ecco, questa è una visione, diciamo, di Agostino molto realistica, e sappiamo che la sua visione poi della situazione di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre è stata poi quella fondamentalmente recepita nella tradizione, e che è la dottrina poi comune della Chiesa. Nel paradiso l'uomo era dotato di ogni sorta di privilegi, era virtualmente immortale, possedeva una scienza ammirabile ed era padrone dei propri sensi. Ecco, questa era la, diciamo, la situazione. L'uomo era quello che diremmo oggi, godeva della giustizia e della santità originaria, giustizia intesa come integrità, padronanza di sé, dominio della ragione sulle passioni, e inoltre era virtualmente immortale, cioè effettivamente poteva evitare la morte, poteva non morire. A questo punto cosa dice Agostino del peccato originale? Dice, è stato un peccato di orgoglio, volendo fare il Dio è diventato simile agli animali senza ragione. Il peccato di Adamo è stato un peccato di orgoglio, si è voluto fare come Dio. Questo peccato è più grande di quanto si possa immaginare. Cioè, ecco, in Agostino abbiamo la consapevolezza che il peccato di Adamo è stato effettivamente una tragedia, una catastrofe che ha provocato poi per tutta la sua discendenza conseguenze molto negative, molto, molto negative. Egli precisa, dice Rondé, l'autore di questo libro, egli precisa con abbondanza di particolari quelle ferite che la scolastica enumererà in maniera astratta. L'ignoranza, quindi le ferite del peccato originale, l'ignoranza, la concupiscenza, la malattia, il dolore, la necessità di morire, eccetera. Ma l'effetto più grave è il peccato stesso. I figli di Adamo nascono in uno stato di colpa. Ecco, Agostino è quello che distingue con chiarezza il fatto che le conseguenze di noi del peccato di Adamo sono uno stato di colpa, un vero peccato che noi, diciamo, ereditiamo, che diviene nostro, e la concupiscenza, la mortalità, l'ignoranza, quindi e dei due la cosa più grave è questo stato di colpa, che è quello che richiede di essere sanato nel battesimo per la grazia di Cristo, e che una volta sanato quello, ecco, non elimina il resto delle conseguenze. La concupiscenza rimane, ma non è la concupiscenza in sé peccato, è conseguenza del peccato, ma non è peccato. Invece, il battesimo toglie lo stato propriamente di peccato, di colpa. Allora, vediamo un po' di entrare adesso, dopo questa presentazione, di come vede Agostino lo stato originario e le conseguenze del peccato. Possiamo andare un po' più in dettaglio confrontando Agostino con la visione pelagiana, perché nella vita di Agostino effettivamente la sua dottrina sul peccato originale più o meno viene formulata già in tempi abbastanza, diciamo, abbastanza presto, però poi è nella seconda parte della sua vita, fino quasi alla sua morte, che lui si deve confrontare molto con i Pellagiani, e lì scrive molto, riflette molto, pensa molto, e allora precisa i punti della sua visione. Noi non parleremo molto di Pelagio, se non per quello che ci interessa riguardo al peccato originale, alla disputa quindi con Agostino. E comunque lui era un monaco bretone che poi nella sua vita si sposta parecchio, si troverà anche a Roma, poi va in Africa, poi dall'Africa deve scappare perché le sue tesi vengono condannate nei concili di Cartagine, e poi deve andare in Palestina, insomma soprattutto quando è a Roma le sue idee hanno una certa diffusione, vengono conosciute, se ne parla. Fondamentalmente la sua era una visione un po' troppo razionalista, mentre Agostino, vedremo, si fonda sulla scrittura e sulla tradizione della Chiesa, sulla vita della Chiesa, anche quando non è possibile magari fino in fondo eliminare determinate questioni che restano aperte. Invece Pelagio, appunto, come tutti i razionalisti, tende un po' a voler sistemare tutto. Allora, Pelagio fondamentalmente ha una visione in cui minimizza il ruolo della grazia, ha un grande ottimismo nella natura umana, che secondo lui sarebbe capace da sé di evitare il male e di fare il bene. Quindi la grazia non è necessaria assolutamente all'uomo. Il peccato di Adamo quindi non ha avuto, cioè è un peccato che è stato personale in Adamo, ma che poi non si propaga, le sue conseguenze non si propagano nella sua discendenza. Ha solo un effetto di cattivo esempio. Diceva che la trasmissione del peccato originale è per imitazione, e non invece, come dirà Agostino, per generazione. Quindi Pelagio dice un cattivo esempio, che non ha però prodotto nella natura umana, nella condizione umana, delle conseguenze. Poi vedremo, preciseremo questo. Allora, vediamo quali sono alcuni punti un po' critici messi in cui i Pelagiani attaccano Agostino, attaccano in realtà la fede della Chiesa. Poi Agostino è quello che più direttamente risponde alle loro... Loro dicono, prima cosa, il peccato originale, il peccato in sé è una questione di esercizio della libertà, richiede l'uso della libertà. E allora, come può essere qualcosa che si trasmette di padre in figlio? Quindi che è indipendente dalla volontà del figlio. Uno si ritrova peccatore senza averlo voluto, diciamo, in stato di colpa senza averlo voluto. E Agostino dice, come risponde? Lui risponde che sicuramente il peccato è questione di volontà, di esercizio della libertà. E dice, in effetti il peccato originale è nato dalla volontà del primo uomo. Cioè, in Adamo è stata questione di esercizio della volontà, il primo peccato. Poi dice, poi in noi si trasmette. Però non è qualcosa che è totalmente sciolto dalla volontà, anche se effettivamente lui, la volontà coinvolta è quella di Adamo, lui questo lo riconosce. In noi cosa è volontario? È volontario l'assenso che diamo alla concupiscenza. Quando noi diciamo di sì a un moto disordinato che è contro la ragione, contro il bene, e noi in quel momento effettivamente diventa è un peccato che diventa volontario. Ad ogni modo, Agostino riconosce che il peccato originale in noi è diverso dai peccati personali. Questi richiedono effettivamente l'esercizio della nostra volontà, e il peccato originale lo ha richiesto solo in Adamo. In noi è diverso dai peccati personali, in noi è anche diverso da come appunto è stato in Adamo. Lui, che era pienamente libero, e anche pieno di saggezza, ha voluto, è libero dalla concupiscenza, ha voluto disobbedire a Dio, ha peccato di orgoglio. Quindi è peccato in senso analogico, si può dire. Ecco, dico già che se uno guarda questa risposta si capisce che Agostino stesso, mi sembra, riconosce che non è un peccato propriamente come sono peccati personali quelli che... qual è in fondo il motivo di base per cui lui dice che c'è un peccato in noi? Il motivo di base è la sua lettura della scrittura, i due passi di San Paolo che abbiamo detto ieri, Romani 5:12, che lui leggeva, il passo come per il peccato di un solo uomo è entrato il peccato nel mondo, per il peccato la morte, e così la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte. Poi c'è quel in quo omnes peccaverunt, come lo leggeva lui. In lui, perché in lui, in Adamo, tutti hanno peccato. Lui leggeva questo in quo, in lui. E quindi dice, tutti hanno peccato in Adamo. Poi leggeva il passo di 1 Corinzi 15, 21-22. Se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. E lui legge questi due passi, poi vede la prassi della Chiesa di amministrare il battesimo anche ai bambini appena nati, che quindi non hanno peccati personali, ma per i quali si chiede la remissione dei peccati. E dice, allora, questo è... E poi, ultimo, quindi, la scrittura, la prassi della Chiesa, e poi l'altro motivo fondamentale è, forse il più fondamentale di tutti, è che lui dice, come dice San Paolo, che non sia resa vana la croce di Cristo. Cioè Cristo, la sua opera di salvezza, è per tutti. Tutti hanno bisogno della salvezza di Cristo. Tutti. Anche i bambini appena nati che non hanno commesso peccati personali. Se questo è vero, occorre ammettere che tutti effettivamente, per il fatto stesso di essere della stirpe umana, hanno una colpa. Hanno una colpa che deve essere sanata e lavata dal battesimo, o comunque dalla grazia di Cristo. Quindi, questi sono un po' i fondamenti, diciamo, della dottrina di Agostino. Poi, seconda cosa, il peccato di Adamo non si trasmette che per imitazione, dicono i pelagiani. E Agostino dice, se fosse imitazione, si dovrebbe semmai allora riferire tutto al diavolo. Lui è il tentatore, lui è quello che... E invece San Paolo, quello che a chi ci rimanda è ad Adamo. Non parla mai, cioè quando dice tutti sono morti in Adamo, tutti hanno peccato in Adamo, non parla del diavolo. Se fosse effettivamente il problema fosse di imitazione, tutti siamo imitatori del diavolo, semmai non imitiamo Adamo. Invece di Adamo dice San Paolo, appunto, come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti rivivranno, 1 Corinzi 15. Oppure in quo omnes peccaverunt, Romani 5:12, cioè, quindi non è una semplice imitazione. Anche perché, terzo punto, vediamo che l'uomo ha una natura, nasce in una natura ferita, vulnerata, lui dice. Mentre per i pelagiani il peccato di Adamo non aveva conseguenze su tutti, non aveva conseguenze, per cui loro dicevano che la morte fisica, sia di Adamo sia nostra, non è una conseguenza del peccato. è una semplice necessità di natura. Siamo fatti così e lasciamo mortali. Ecco. E, oppure dicevano, dei bambini, i bambini nascono in uno stato che è lo stesso di Adamo quando era innocente, prima del peccato. Quindi lui, la sua, cioè i Pelagiani, la visione, l'idea che avevano di Adamo era di un uomo esattamente come noi, nel senso di senza peccato, innocente, che avrebbe dovuto morire. E la morte fisica è una necessità di natura, non è una conseguenza del peccato di Adamo. E invece Agostino dice no, dice lo stato nostro è uno stato decaduto, la natura originaria era buona e noi la ereditiamo invece viziata e vulnerata. Come si vede perché dice nasciamo in uno stato di decadenza segnato da ignoranza, da mortalità, divisione dello spirito contro la carne. E poi Agostino ha una visione piuttosto realistica del genere umano, che vede e descrive come, appunto lui usa parole forti, massa peccati, massa perdizioni, massa dannata, vede tutti i disastri e gli sfaceli che fanno agli uomini e dice tutto questo non è semplicemente una necessità di natura, tutto questo è conseguenza del peccato originale di Adamo, che fa sì che in noi la nostra natura sia ferita, vulnerata, sia decaduta. Quindi questo è anche molto più, cioè, più lucido e più capace di vedere le cose come stanno rispetto ai Pelagiani. L'umanità quindi, ecco, non ha una semplice imitazione nei confronti di Adamo, ma riceve una natura caduta, vulnerata, assolutamente bisognosa, lui dice, del medico celeste. Deve essere riparata questa natura. Poi lui distingue bene tra la natura che in sé è buona, così come l'aveva pensata Dio, e la natura che abbiamo noi, nella quale appunto la concupiscenza e la mortalità sono dei deficit, dei difetti causati dal peccato. E, bene, poi un'altra idea chiara che un po' ho già detto, ma che riprendo un momento, di Agostino è la distinzione tra peccato originale propriamente inteso e concupiscenza in noi, perché non era ancora chiarissimo, ci sono un po' negli scritti dei padri, anche si trova a volte una certa, a volte si dice che il peccato originale è la concupiscenza, a volte insomma si confondono un po' le due cose. Agostino le distingue in modo chiaro. Lui dice che prima della caduta i moti sensibili dell'uomo erano pienamente soggetti alla ragione, non vi era quindi concupiscenza. Dopo la caduta invece, i moti sensibili sfuggono, diciamo, alla ragione dell'uomo. E quindi la concupiscenza in noi, la concupiscenza che non esisteva nello stato originario, è in noi conseguenza del peccato originale. Conseguenza, però non è l'unica conseguenza. La conseguenza più grave è appunto lo stato di colpa. Perché? Lui dice, siccome nel battesimo il peccato originale viene lavato, però la concupiscenza rimane, è evidente che non è questa, non è questa l'unica conseguenza del peccato, anzi questa di per sé non è peccato, quello che è peccato è quella colpa che viene lavata, asportata, eliminata dalla grazia di Cristo nel peccato originale. Bene, abbiamo altri 2 minuti, potremmo vediamo, tiriamo 2 conclusioni su Agostino. La prossima volta magari vediamo come le idee di Agostino si trovano cristallizzate nel Concilio di Cartagine del 418, poi dopo anche ribadite quello di Orange del 520 rotti, e poi come si ritrovano anche in quello di Trento. E adesso mi stava a cuore solo ripetere un po' quello che dicevo già prima, di quali sono le cose imprescindibili, no, per Agostino, che invece per i pelagiani erano, ecco, appunto, erano messe in questione tranquillamente. Primo principio fondamentale, anche ermeneutico per Agostino, l'interpretazione di tutto, è l'esigenza di non svuotare la croce di Cristo. Cristo, che per la tradizione, per la scrittura, pro omnibus mortus est, cioè è morto per tutti, ha salvato tutti, ha redento tutti, non possiamo pensare che ci sia salvezza se non in virtù della grazia di Cristo. Anche, lui dice, quindi, anche per i bambini che non hanno peccati personali, che quindi l'universalità della redenzione operata da Cristo richiede il fatto che tutti siano sottomessi, soggetti al peccato. Poi l'altro principio cardine, anche che sta molto a cuore Agostino, è di non addebitare in nessun modo il male a Dio. Questo che era chiaro anche per i padri precedenti: l'origine del male non è in Dio, ma è nell'uomo, è nel cattivo uso della propria libertà che l'uomo ha fatto. E ecco, vi leggo un piccolo commento che fa questo autore Bendinelli a conclusione di un'esposizione di Agostino. Dice: l'affermazione del peccato originale si pone dunque come dottrina che salvaguarda il mistero del male dell'umanità, quindi attribuendolo non a Dio ma all'uomo, senza la pretesa di fornirne una risposta esaustiva, ma ancor più senza la tentazione riduzionistica e razionalistica, che era quella dei pelagiani, una tentazione razionalistica, di azzerare il dato rivelato a categorie umane mortificanti, screditare, diciamo, quello che dice la scrittura, la tradizione, anche a costo, come fa Agostino, di assumere in pieno la sfida di un mistero che si pone sempre al di là delle nostre categorizzazioni. Cioè Agostino accetta anche di dire delle cose scomode, soprattutto quella della non salvezza per i bambini, però non si sente di dire cose diverse da quelle che ha ricevuto, da quelle che ha. Vedremo che anche, diciamo, il mistero della salvezza per i bambini senza battesimo è una questione che rimane, diciamo, anche oggi piuttosto importante, piuttosto presente, su cui quello che dice anche la Commissione Teologica Internazionale di recente, dice: la rivelazione non ci dice niente di sicuro su questo. Abbiamo molti motivi, per oggi di più di quelli che poteva avere Agostino, anche per tanto sviluppo anche del sensus fidei, eccetera, motivi per sperare, quindi per poterli affidare con fiducia alla misericordia di Dio. Senz'altro però quello che non si può dire è che loro così si possono salvare indipendentemente dalla grazia di Cristo. Anche senza il battesimo occorrerà pensare, immaginare che in qualche modo si applichi a loro la grazia di Cristo. Quindi non possiamo dire invece come i pelagiani, dice: no, tanto loro non sono corrotti, non hanno peccati personali, non hanno il peccato, non hanno bisogno della grazia di Cristo. Hanno bisogno della grazia di Cristo. E quello che possiamo dire oggi è che, forse con più fiducia di quanto poteva dire Agostino, Dio avrà lui un modo per arrivare a loro con la propria grazia. Bene, c'è qualche domanda, qualche...